George Benson, che dà la continuità con la sigla On Broadway, in scena si apre la via del teatro, in questo caso una piazza. San Francesco Estate, già partita la rassegna e abbiamo un programma che va anche in last minute, perché è questa sera l'appuntamento che comprenderà il secondo fine settimana, aprendo venerdì 30 giugno con lo spettacolo Già dal titolo, che è una canzone meravigliosa spesso portata in playlist mattutina, Dream a Little Dream, il sogno diversamente blues di Roberta Lidia De Stefano, che è qui con noi. Buongiorno mattiniera Roberta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Ciao. Sento che sei anche mi pare all'aperto, fuori, così ho questa Intuizione. Ecco, bene, quindi sei già sento neanche in colpa, guarda. No, guarda, ho approfittato perché dovevo rifare i documenti di identità, quindi perfetto, ho detto facciamo tutte e due le cose assieme. Radio Spero Berta. che non sia troppo rumoroso, ma non no, mi pare. No, assolutamente è perfetto, perfetto. Poi va bene anche avere un'utilità per gli appuntamenti burocratici, il Breakfast Club, vedi? Quindi tutto torna. Ho approfittato. Allora, vedo altre protagoniste vicino a te, da Etta James a Sarah Vaughan, alla grande Dinah Washington, ma la recente scomparsa di Tina Turner, Dusty Springfield, un'altra dei miei idoli, la grande Billie Holiday, una delle regine madri, Bessie Smith, e poi anche più vicino al rock blues come Janis Joplin e Joni Mitchell per quanto riguarda i diritti civili, oltre che la grande classe musicale Nina Simone, insomma, fino ad arrivare a Amy Winehouse. Come fai a portarle tutte comunque? Onore al merito. Grazie, intanto non le porterò tutte perché insomma, cioè, alcune sono soltanto, come dire, delle citazioni ideali, però sono, ecco, è a loro che devo questo omaggio, insomma, perché è una, diciamo che è uno spettacolo che parla di una sorta di albero genealogico, no? Di famiglia, di un passaggio di testimone tra un femminile, appunto, artistico, no? Che si passa da donna a donna questo testimone, che a volte è anche impegnativo, è anche un po' pesante, perché parliamo anche di donne, di figure piuttosto oltre che appunto violente, ma anche figure impegnative, no? Alcolizzate, masochiste, a volte un po' discutibili anche, no? Per le loro scelte, oltre che anche delle donne che hanno avuto un grande coraggio dal punto di vista, come dicevi bene, dei diritti civili. Penso appunto alla questione dell'apartheid per Nina Simone, ma anche alle questioni della violenza domestica, la violenza sessuale, appunto cose che purtroppo condividiamo sulle pagine delle cronache anche dei giorni d'oggi, no? E poi abbiamo queste donne, sono anche con dei rapporti sentimentali che, più che sentimentali, sono stati motivo di strumentalizzazione e violenza. Per cui è qualcosa di omnicomprensivo nella denuncia, di omnicomprensivo nel talento, che direi che va oltre il genere. Questo è talento puro, con una capacità eterogenea di esplorazione all'interno della black music e non solo. Quindi, insomma, veramente un all-star game di artiste che ho letto quanto mai completo e variegato. Come si svolgerà? Qualche anticipazione per quanto riguarda questo spettacolo in musica, Roberta? Allora, in realtà io da anni che proprio sono appassionata di blues, ma proprio di quello, appunto, dell'imperatrice, no? Di Bessie Smith, che in realtà è il pretesto proprio di quello che è successo a Bessie Smith che mi ha fatto poi scrivere questo spettacolo, perché Janis Joplin nel 1970, a 30 anni dalla morte di Bessie Smith, ha deciso di riprendere, diciamo, la sua lapide, che il marito di Bessie Smith non aveva degnamente, diciamo, epitaffiato, E quindi lei ha detto: beh, non è possibile che l'imperatrice del blues che già c'è qui non abbia almeno una scritta, no? Quindi lei le scrive: the best blues singer in the world will never stop singing, cioè la più grande cantante blues al mondo non smetterà di cantare. E da lì a me è venuta questa, diciamo, questo pensiero, quest'idea di volerle omaggiare proprio come fosse una sorta di maternità, no? Quindi Bessie Smith, io mi sono inventato un po' questa storia per cui io sono una cantante che mi sono data il nome Janis, come Janis Joplin, perché Bessie Smith è mia nonna, che è nera. Ah, bello! Senza fare poi dei nomi nello spettacolo, perché chiaramente è simbolica il riferimento, però io sono la nipote di una donna nera, imperatrice del blues, figlia della regina del blues, una principessa forse non molto adatta ad essere una star. E per cui da qui nasce tutto questo dramma, che poi è un po' una specie di dramma al contrario, cioè una bianca che non si sente all'altezza delle black voice e anche di tutta la storia, no? Di tutto il portato, anche la profondità che può portare l'essere diverse, la diversità, no? E quindi da lì è nata questa sorta di racconto di albero genealogico, ovviamente costellato da racconti veri presi dalle biografie delle grandi cantanti come Billie Holiday, appunto Bessie Smith, ma anche Janis Joplin, dove io appunto citerò a tratti, anche perché chiaramente il riferimento è abbastanza evidente, ecco. Sì. Per cui questa è un po' la storia, il racconto della famiglia, che paradossalmente si racconta in piazza proprio in questa sorta di non luogo, tutti i luoghi, insomma, dove è nato il blues, certo. E dove è nata anche lei. Sì, alle ore, qui adesso per dare informazione più precisa alle, sì, ascoltatrici e agli ascoltatori, questa sera San Francisco estate alle ore 21. Tu puoi, sì, restare un attimo in diretta perché ascoltiamo, certo, un po' di musica con una, bello, delle mie, sì, sì, una delle altre mie preferite. Questo è uno standard jazz e ho voluto mettere Sarah Vaughan nell'interpretazione di Morning, ok? A tra, adoro, poco. Grazie Roberta. Every morning finds me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying the dues. Everybody knows I'm moaning. Every evening I'm moaning. 'Cause of all the trouble I see, life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief. And I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning finds me moaning. I do. Everybody knows I'm moaning. È una delle protagoniste che è protagonista, portata da Roberta Lidia De Stefano nella presentazione di questo All Star Game. Sarah Vaughan, identificata ufficialmente come l'uscita da queste gabbie, definite gli usignoli del jazz più come arredamento, le voci femminili per l'accompagnamento di musicisti veramente molto talentuosi. Sarah Vaughan ufficialmente farà uscire questa definizione rompendo questa gabbia, rompendo questi recinti con una voce che va a sostituire, anzi va a complementare, come se fosse uno strumento in più. Donna di una bellezza veramente molto molto importante, ma anche con un caratterino, veniva chiamata come soprannome il marinaio, perché quando perdeva la pazienza, insomma, non aveva proprio un lessico così ordinato, andava un po' fuori dagli schemi. Genio e sregolatezza anche nella vita privata. stata anche lei purtroppo mal consigliata nei suoi percorsi sentimentali. Resta una figura importante, come ho detto, per rompere questa gabbia, non più usignoli ma veramente protagoniste nel mondo del blues e del jazz. Scusa questa divagazione, cara Roberta, se sei anche... No, anzi, hai fatto benissimo, perché proprio poi questa è la cosa che accomuna tutte queste donne, tutte le cose che hai detto proprio. Certo, da Billie Holiday, che è stata in partenza la più grande sia cantautrice che cantante in ambito jazz, Nina Simone, sì, per quanto riguarda i diritti civili, insomma la stessa Dusty Springfield, che fra l'altro ha lasciato intuire una chiara omosessualità ed è sempre stata criticata per questo, pur essendo secondo me una delle cantanti e interpreti bianche più soul, più straordinaria, sì, veramente quella che sì, ti prende il cuore, Dusty Springfield. Sono quelle donne con una voce che è una voce che non so come dire, che ha dolore, cioè in qualche modo, cioè c'è un calore, ma cioè trasmette anche un grande dolore. Sono voci antiche, sono voci che hanno qualcosa da dire, insomma. Adesso sì, è un po' complicato nella musica leggera, non dico italiana, però anche un po' internazionale, ritrovare questo carisma, no? Questo carattere. Cioè, stiamo parlando di donne, peraltro, tra di loro che avevano una grande rivalità, no? Sì. Erano delle belve anche sul palco. Dici bene, Sarah Vaughan era molto borghese di famiglia. Determinata lei di carattere. Sì, ma poi per esempio conservavano anche, per esempio Sarah Vaughan, io ho saputo questo aneddoto, che cercava di sabotare Billie Holiday a tutti i costi, proprio perché comunque avevano anche delle similarità, no, nel tessuto vocale, avevano questa voce vellutata entrambe, anche se chiaramente Sarah Vaughan io la adoro, era bellissima, eccetera, però Billie Holiday per me, certo, proprio per la sua sofferenza, per la sua iconicità, diciamo, anche perché anche Billie Holiday appunto ha preso Strange Fruit, proprio l'albero degli strani frutti, no? A cui erano appesi poi in realtà i neri, e anche a questo episodio si ispira il mio spettacolo, cioè quest'albero genealogico, che poi è l'albero, diciamo, del mio giardino, a cui sono appesi degli strani frutti, un albero che ha delle strane foglie, no? Sembra che ci sia sangue sulle foglie, sangue sulle radici. E poi da lì parte, insomma, il pezzo Strange Fruit, proprio perché in quel periodo c'era il Ku Klux Klan che andava lì ai concerti anche a seguirli, per cui queste donne scendevano dal palco, si incazzavano proprio e dicevano che erano delle checche isteriche, che se ne dovevano andare, dovevano togliere quei cappucci, finire quella messa in scena, perché loro dovevano continuare a cantare. Sì, grande coraggio. Grandissimo coraggio. Strange Fruit è stata addirittura vietata all'inizio per i contenuti molto, molto importanti. Una poesia in musica sofferente, ma allo stesso tempo da una voce meravigliosa. Billie Holiday, la musica e la voce in jazz. Aggiungo un'altra, faccio una divagazione in quanto appassionato, è Abby Lincoln, che è stata una musicista fondamentale. Beh, troviamo anche il collegamento con il rock. Tra l'altro ne sarai protagonista in prima persona con Janis Joplin e niente, è un panorama sul quale per ogni monografia potremmo fare una puntata, Roberta. Sì, infatti è stato veramente difficile fare una scelta, no, di percorso, però poi alla fine, sai, è un po' un'autofinzione, ecco, sì, è un po' un racconto, certo, che effettivamente io un po' mi sento negra, dico negra apposta, non perché chiaramente non sappia che si dica nera. Ah, ma condivido con te questa sensazione, sai? Condivido, saranno stati gli anni di sport, la vicinanza al mondo cestistico, non lo so, ma io da adolescente ero convinto di essere afroamericano, quindi questa, sì, certo, un'autoesaltazione. Sì, esatto, bravissimo, poi in realtà magari è proprio un'autoesaltazione basta, però c'è questo senso, un po' io sono una donna del sud comunque, sono una donna calabrese con origini totalmente del sud, sono cresciuta con una nonna che comunque mi cantava le canzoni, la musica popolare comunque è in un certo qual senso il nostro blues in qualche modo. Sì. Mia nonna lavorava nei campi, mi ripeteva un sacco di cose che poi ho ritrovato dentro a queste biografie, perché poi alla fine chiaramente cambiano i contesti, cambiano le cose, però sai, i traumi e le storie delle donne e degli uomini alla fine sono sempre le stesse, i grandi temi sono sempre gli stessi, ed è anche un po' questa la sfida, no, di questo racconto, che può essere veramente avvenuta ovunque questa cosa. Poi è chiaro che in questo momento storico certi temi sono anche più sensibili, c'è più attenzione anche, no, alle questioni, come dire, politiche, no, della, certo, sociali, politiche, eccetera. Però poi in fondo abbiamo purtroppo sempre gli stessi problemi. Al tempo stesso c'è anche un rapporto ironico nei confronti della vita, no? Questa sorta di ironia tragica che hanno proprio insita nel loro DNA queste donne, perché c'è un fatalismo, c'è una resa anche da certi punti di vista nei confronti di questi uomini. E ci tengo a precisare che stasera con me sul palco ci sarà Massimo Betti alla chitarra, okay, un grandissimo chitarrista, compositore, insomma, che interpreterà, io interpreto questo personaggio che è tutte le donne del blues, lui interpreta tutti gli uomini del blues, okay, quindi sarà, certo, mio nonno, mio padre, mio marito, a seconda delle circostanze. E chiaramente questi uomini sono quasi muti, nel senso sono degli uomini, un universo maschile piuttosto assente, piuttosto sfruttatore, manipolatore. Trattano queste donne come fossero delle prostitute. Un contorno, no? Negativo. Sì, un contorno negativo e lasso, no? Sai quella cosa lì che poi viene fuori anche dalle canzoni. There's Gonna Get You di Bessie Smith dice: tu te ne vai in giro con le tue puttanelle, dice proprio, con le tue puttanelle, e poi torni a casa, vieni nel mio letto e mi giri il culo in faccia. E lui dice: ma che il diavolo ti porti, no? Tu sia maledetto. Sì, esatto, questo è l'atteggiamento un po' di questi uomini, no? Che facevano i fatti loro, prendevano i soldi da queste donne quando loro si arricchivano, quindi facevano i manager, ma poi si giocavano i soldi, andavano a finanziare i tour delle ballerine, facevano un po' quello che è. Tant'è vero che poi anche Albi, nel suo testo molto criptico La morte di Bessie Smith, grande drammaturgo americano, ha scritto questo brevissimo testo in cui si racconta che poi alla fine la morte di Bessie Smith è stata dovuta a un mancato soccorso di suo marito, che è scappato dopo questo incidente d'auto che lei ha avuto, perché poi non poteva portarla in un ospedale vicino perché erano tutti ospedali per bianchi. In pronto soccorso per bianchi, sì. Esatto, quindi capite, c'è questa figura maschile che comunque è una figura che poi a un certo punto nemmeno nell'atto sessuale, capito, si attiva. Proprio una classica figura, sai, stereotipata, se vuoi, di un uomo del sud, pigro, lento, cioè... È chiaro che parliamo di uno stereotipo, però non erano proprio delle figure virtuose, ecco. No, affatto. E innanzitutto volevo, oltre che ringraziarti, anche farti i complimenti per l'idea dell'albero con riferimento al brano di Strange Fruit, con le foglie che rappresentano brani e protagoniste, con questo albero che diventa albero genealogico, con l'interpretazione di una grandissima come Janis Joplin, che si immagina la nonna passando attraverso tutte queste nipoti e sorelle che rappresentano la musica afroamericana nel blues in declinazione, ovviamente, da protagoniste. L'appuntamento è questa sera alle ore 21 per la rassegna San Francesco Estate, è il secondo weekend, e troviamo Dream a Little Dream, canzone bellissima peraltro, Sogno diversamente blues di Roberta Lidia De Stefano. L'accompagnamento alla chitarra sarà in scena anche Massimo Betti, quindi io metto il brano At Last a questo punto. Perfetto, ci sarà fine, nello spettacolo. Immaginavo. Io ti ringrazio per questa conversazione. Grazie, e ti auguro una buona giornata. Ciao. Ciao. A stasera. Ciao Roberto. Ciao. At last, my love has come along. Are over, and life is like a song. Oh, yeah, yeah. the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I ancora qualche secondo della splendida voce di Etta James con At Last, questo grande classico del soul blues. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo sempre sul palcoscenico di Radio Città Fujiko con la rubrica In Scena. A tra poco.